Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Spesso si dice che il futuro è figlio del passato e il mondo dei veicoli non fa eccezione. In un periodo in cui la moda e il design sembrano riscoprire le linee di un tempo, infatti, anche auto, due ruote, autocarri d'epoca rivivono una nuova vita in raduni e rievocazioni storiche. Non mancano le associazioni di collezionisti o di semplici appassionati impegnati a preservare il passato di mezzi che hanno macinato chilometri di strada e assicurato instancabilmente consegne di beni e prodotti. Forme meno scattanti, musi tondi e meccanica essenziale sono le caratteristiche di questi testimoni della storia dei trasporti, assai diversi per funzionalità e aerodinamica dai loro discendenti più giovani. Ma quali sono le regole da seguire per diventare veicoli storici? Quali le principali limitazioni? Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Si dice che il futuro sia figlio del passato, una regola particolarmente valida per il mondo dei veicoli, siano essi automobili o veicoli commerciali o veicoli pesanti in alcuni casi. E allora oggi proviamo a fare un po' un tuffo nel passato in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Pierpaolo Fraddosio, collega giornalista e autore. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a te Massimo, grazie a te. E salutiamo anche Alberto Ceresini, che invece è il vicepresidente del Circolo Italiano Camion Storici, ma è anche un commissario dell'ASI. Buon pomeriggio anche a lei. Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora Ceresini, cominciamo proprio da lei. Che cos'è l'ASI e quanto è importante appunto per il recupero di questa tradizione nel mondo dei veicoli, delle automobili, dei veicoli pesanti, che è una tradizione che storicamente ci appartiene? Ma direi che l'ASI è fondamentale in quanto ci permette di poter riconoscere le caratteristiche di veicolo storico e collezionistico a tutti questi mezzi. Quindi senza la certificazione che ci rilascia l'ASI non sarebbe poi possibile classificare questi veicoli come veicoli storici. Ed avere quindi anche tutta una serie di agevolazioni, come ad esempio quelle legate al bollo o alle assicurazioni. Pierpaolo, invece, tu che ti occupi da tanto tempo di questo mondo dei veicoli storici, quanto è forte questa passione in Italia? Ma la passione dei veicoli storici in generale è fortissima, lo chiarisco, poi si vede dagli eventi, dalla concentrazione di appassionati, dal tipo di eventi che si creano. Il veicolo storico, in questo caso parliamo di camion tendenzialmente o di veicoli utilitari industriali, comunque è un sublime concentrato di poesia, di arte, di tecnica, di design e cultura statica e in movimento. E io penso che sopravviva all'uomo e viva nella storia degli uomini che l'hanno posseduto, ma non è mai veramente di alcuno, perché appunto appartiene alla storia, alla cultura. Quindi diciamo che la passione per i veicoli storici è immortale e questo si certo nota anche dagli appassionati giovanissimi. Tra l'altro noi in Italia abbiamo una grande tradizione di produzione automobilistica e questo fa sì che il nostro paese sia anche appunto terra di appassionati di veicoli storici. Ceresini, che cosa deve avere un veicolo per essere iscritto in questo elenco dell'ASI e quindi avere tutta una serie di agevolazioni che le chiedo tra l'altro anche di ricordarmi? Sì, allora diciamo che innanzitutto una volta identificato il mezzo, che sicuramente deve essere interessante sia dal punto di vista della tipologia di veicolo ma anche ovviamente dalla data di costruzione, occorre che il proprietario chiaramente si attivi facendo tutta una serie di cose che vorrei riassumere brevissimamente. Prima di tutto si deve iscrivere a un club ovviamente federato ASI che sia idoneo per quella categoria di veicoli, che abbia le competenze per poter esprimere pareri su questi veicoli. Dopodiché, fatta l'iscrizione, occorre ottenere il primo documento ufficiale che si chiama Certificato di Rilevanza Storico-Collezionistica, il famoso CRS. Questo è un documento che viene rilasciato esclusivamente dall'ASI e che poi permetterà di proseguire con i passi successivi. Questo CRS praticamente certifica che il veicolo ha tutte quelle caratteristiche, quei requisiti che possono far sì che venga riconosciuto storico. Ottenuto il certificato di rilevanza storico-collezionistica, bisogna poi procedere con tutta quella che è la parte necessaria poi alla circolazione stradale, quindi mi riferisco alla motorizzazione civile, quindi occorre fare, sostenere in alcuni casi un collaudo tecnico che ci permette di aggiornare quella che è la carta di circolazione. Quindi sulla carta di circolazione viene proprio scritto che il veicolo è di interesse storico-collezionistico e è dotato di un certificato di rilevanza storica, viene proprio citato sul libretto. Quindi questa è la procedura che deve seguire chiunque abbia o crede di avere un veicolo storico che merita un tipo di attenzione da parte dell'ASI. Pierpaolo, tu tra l'altro curi una rubrica dedicata ai veicoli pesanti storici per conto della rivista del Ministero dei Trasporti, quindi segui con grande attenzione anche l'evoluzione di questo mondo, ma ti voglio chiedere, chi è il collezionista di veicoli storici, siano essi automobili o veicoli industriali? Allora, il collezionista, quindi l'appassionato di motori storici, è una persona che si avvicenda insieme ad altre nella conservazione di questi beni culturali, come ho detto prima, quindi artistici. Quindi è sicuramente un appassionato, ma è ancor di più una persona che conserva in maniera, a volte la maggior parte dei casi, impeccabile, il mezzo. Quindi è una persona che lo utilizza anche per eventi, per qualunque tipo di cose, anche per una semplice passeggiata, ne ho conosciuti, a giornaliera, che era dopo il lavoro per sfogo, quindi è una persona sicuramente eclettica. Rari sono i casi, poi dipende anche dal veicolo, di persone che li tengono lì statici in garage, e il che sinceramente non fa bene neanche ai motori. Certo che sì. Ceresini, lei che si occupa in maniera specifica di veicoli pesanti, mi sa dire invece chi è il collezionista di veicoli pesanti? Io penso nella maggior parte dei casi stiamo parlando di imprese di vecchia data che conservano dei veicoli che magari utilizzavano i nonni piuttosto che i bisnonni, veicoli che tra l'altro non possono certo essere più utilizzati per il trasporto delle merci, credo. Assolutamente sì, quello che lei ha detto è verissimo, anche se l'identikit preciso di quello che è il collezionista forse non esiste, soprattutto nel caso dei veicoli pesanti, perché sono tante le motivazioni per cui una persona è affezionata a un determinato tipo di camion piuttosto che a una corriera, e quindi diciamo che sono molto spesso delle motivazioni puramente ed esclusivamente personali. Sicuramente poi che accomuna tutti quanti è quello che diceva Pierpaolo prima, quindi l'aspetto proprio storico, culturale, la passione, la voglia di vedere ancora questi mezzi muoversi, circolare, anche se, come diceva lei, non sono ovviamente più idonei per nessun tipo di trasporto. Proprio il CRS che citavamo prima prevede la non più possibilità di trasportare merci sicuramente, cosa invece che per autobus e corriere è possibile, ma solo esclusivamente nell'ambito di quello che è un evento organizzato e autorizzato, quindi una manifestazione ben specifica, c'è ancora la possibilità di trasportare passeggeri. Questo è rimasto. Certo. Pierpaolo, quali sono i principali raduni italiani di questi veicoli storici? Parlo di veicoli in generale, quindi anche autoveicoli. Ma guarda, sono tantissimi, ci sono raduni di tutti i tipi, dalle gare, delle cronoscalate di auto d'epoca, dalla Milano-Taranto, che mi ricordo che una gara, era all'epoca una gara importante, adesso è diventata una gara di regolarità, quasi una passeggiata per l'Italia, poi citiamo le Mille Miglia, ma insomma dalle più conosciute alle meno conosciute, quello che conta, e lo vedo soprattutto in questo caso durante le Mille Miglia, che vengono equipaggi in Italia anche dal Giappone, quindi traghettano, no, per le auto magari degli anni 20-30, loro arrivano in aereo e poi si girano l'Italia con queste auto molto particolari. Ma anche i semplici raduni che può organizzare anche un privato o un club sono degni di menzione, perché forse è proprio lì che si vede una passione più genuina, più divertente, quasi fatta in casa, perché poi si è di meno, si fanno cose, attività ricreative più semplici. Però ecco, secondo me qualunque modo di uscire insieme con i propri veicoli storici è un degno di lode. Un'occasione, certo. È un'occasione. Ceresini, da quello che dice Pierpaolo, questo sembra come dire un hobby per ricchi, ma è sempre così? O gestire un piccolo parco di veicoli storici può essere, come dire, economicamente accettabile? No, è sicuramente accettabile, sicuramente accettabile. Quello che prevale, secondo me, è proprio la passione. Quando uno dedica tempo a quelle che sono le cose che ama e che piacciono, sicuramente poi tutto il resto, certo, non ha valore, è chiaro. Secondo esatto piano, ma non ha valore. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Oggi abbiamo fatto un po' un tuffo nel passato in compagnia dei nostri ospiti, che ringrazio. Vi ricordo il prossimo appuntamento con Container, come al solito, sabato alle 13:15 circa. E un saluto a tutti da Massimo De Donato.